Per chi è che ti incolli tutti quei mattoni? Si può sapere. Dio. È così. Dio. Beh, Kevin, ti voglio dare una piccola informazione confidenziale a proposito di Dio. A Dio piace guardare. È un guardone giocherellone. Riflettici un po'. Lui dà all'uomo gli istinti. Ti concede questo straordinario dono e poi che cosa fa? Te lo giuro che lo fa per il suo puro divertimento, per farsi il suo bravo cosmico spot pubblicitario del film. Fissa le regole in contraddizione, una stronzata universale. Guarda ma non toccare. Tocca ma non gustare. Gusta ma non inghiottire. E mentre tu saltelli da un piede all'altro, lui che cosa fa? Se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate, perché è un moralista, è un gran sadico, è un padrone assenteista, ecco che cos'è, e uno dovrebbe adorarlo, no mai! Meglio regnare all'inferno che servire in paradiso, non è così? Perché no? Io sto qui col naso ben ficcato nella terra e ci sto fin dall'inizio dei tempi. Ho coltivato ogni sensazione che l'uomo è stato creato per provare. A me interessava quello che l'uomo desiderava e non l'ho mai giudicato. E sai perché? Perché io non ho mai rifiutato, nonostante le sue maledette imperfezioni. Io sono un fanatico dell'uomo. Sono un umanista. Probabilmente l'ultimo degli umanisti. Chi, sano di mente, Kevin, potrebbe mai negare che il XX secolo è stato interamente mio? Tutto quanto, Kevin! Ogni cosa! Tutto mio! Sono all'apice, Kevin. È il mio tempo questo. E buonasera a tutti quanti, quelli che ci ascoltano e anche quelli che non ci ascoltano. Signori e signori, benvenuti alla puntata 1x03 di Rullo di Tamburi, morti di cazzo, di bestemmie del cazzo! Yeah! Basta, fuck yeah! Basta! No, andiamo avanti, avanti. Allora, prima di presentare il nostro graditissimo ospita, perché è un ospite femminile, mi tocca... Ma per quello dobbiamo limitarci, no? Perché sì, c'è una donna... Ma ti deve presentare ancora, non fare il solito indisciplinato. Evita, cioè, tu non parli mai, non dici mai un cazzo, e quando io faccio le presentazioni poi assurgi liberamente a qualcosa di cioè, a livello superiore. Vado a vedere che significa assurgi, e se non mi piace... Vado dall'avvocato. Vado dall'avvocato, sappia. Io ce l'ho in famiglia l'avvocato, vaffanchiappola. N, ce n'ho, avvocato. Allora, prima di tutti i due ospiti da Roma, nella fattispecie quello che ha appena parlato, Marco D'Amore. Salve, salve a tutti e tanto amore a tutti. E invece sempre da Monte Rotondo in loco rotondo, Frullo di Tamburi, nella provincia di Roma, ma fuori dal raccordo anulare, Simone D'Amore. Ciao a tutti, sono felicissimo di essere in questo ennesimo episodio di Morti Bestemmie, soprattutto perché questa puntata l'ho voluta io e ci tengo molto a dirlo. E a questo punto c'è l'ospita. Bambini. Io, soprattutto quello sempre. C'è l'ospita e quindi ripassiamo la palla al giusto conduttore, anche detto Alex D'Amore, che ci introduce l'ospita. L'ospita di oggi... Ci conosciamo da quanto? 4 anni? Forse sì. Forse. E le voglio un bene dell'anima, del tipo che appunto lei sarà presente al momento del fatidico sì, anche se non sarà lei che lo dirò, però in altra veste, però diciamo che qui oggi è con un cappello diverso, il cappello dell'insegnante McGranit, che però con due zizzone di dimensioni catastrofiche. Signore e signori, Pussy Calore, la figlia di Erode, ladies and gentlemen, Ben Teacher. Buonasera. Ciao cara, ciao, benvenuta, ciao, in questa meravigliosa trasmissione Morti di Bestemmie, che tu ovviamente sai, e mi è stato detto che tu tra l'altro caschi proprio a fagiolo, perché... Casco, sì. Sei o a fagiolo, bisogna vedere, insomma. Esatto. Comunque Alex, a noi dei cazzi tuoi, delle cose belle, non ce ne può fregare niente, ti muori di bestemmie anche tu stasera, insomma, quindi per farvi vedere che io so aprire le parentesi, so pure chiuderle. Ho continuato ad aprire parentesi, sì. Chiudere la parentesi che ho freddo, dai. Allora, caro Alex D'Amore, prima di iniziare il vivo della trasmissione, ovviamente diamo le nostre solite tre noticine, quelle che facciamo sempre, oltre a dire il fatto che Morti di Bestemmie lo potete trovare su iTunes, quindi cercateci, abbonatevi soprattutto gratuitamente, mettete anche 5 stelle e fate le fantastiche recensioni che fate di solito, meravigliosa trasmissione, aspetto tecnico meraviglioso, gente fuori di testa, sa, scrivete quello che cazzo vi pare, ma soprattutto ci cercate anche su Spreaker, anche se, questa è una cosa importante, questa trasmissione è stata fagocitata dal canale di Videoludica. Ecco, io mi sentivo che ci sarebbe da dire, infatti, vedi? Che ce ne sarebbero da dire di bestemmie anche qui su questa cosa. Quindi MDBnet alla prossima settimana chiude, perché tutte le puntate si sono spostate dall'altra parte. I soldi che ti ho dato che fine fanno? Anche io lo so, li abbiamo riciclati dall'altra parte. Ah, va bene, allora sì. Perché dall'altra parte sono aumentati i soldi, quindi vabbè, comunque un altro discorso. E quindi questa diretta, tra l'altro, non ha interruzioni, quindi andiamo lisci tutto fino alla fine, non dovete ricaricare pagine, roba del genere, che siamo diventati ricchi e abbiamo speso tanti soldi. Cioè, eravamo ricchi, poi abbiamo speso i soldi, non lo siamo più, però non lo siamo assolutamente più. Io voglio anche lanciare un'iniziativa che è importante, questa cosa. Ci tieni tanto, a ci noi tengo no, moltissimo, però so che ci che è rivolta al nostro pubblico. So che ci, insomma, alcuni ci ascoltano affezionati live, altri ci ascoltano in differita, scaricando il podcast. Noi vogliamo darvi l'opportunità di scriverci tramite il nostro fantastico indirizzo di posta elettronica, che è mortidibestemmie@gmail.com, indicando un vostro caro, un vostro non caro, un vostro amico, un vostro animale domestico, il vicino di casa, insomma, indicando chi volete ammazzare di bestemmie, e noi lo faremo per voi. Dedica una bestemmia ad un tuo caro. Bravo. Una bestemmia è per sempre. È per sempre, esatto. È come in radio una volta si facevano le dediche delle canzoni, giusto, Alex? Sì, sì. Tra l'altro, Pussy Calore mi sta facendo una lista di 40 persone. Sì. Nel momento in cui hai detto, ah, posso farlo, aspetta che segno, sì. Mi ha chiesto un'altra penna perché ha finito tutto. Esatto. C'è Francesco, ciao Francesco, ti saluto i miei fans. Salutiamo la gente, a questo punto entriamo nel vivo del perché, insomma, questa puntata si chiama Bimbi Minchia, no. Bimbi Minchia ha 40 anni. Quella no, quella dell'altra volta. Bambini Satana, perché poi Bambini Satana è una cosa che, insomma, ricorre moltissimo, perché chi... Quei poche persone che seguono Michela e me sui social network lo sanno, sai che noi intanto utilizziamo questo termine Bambini Satana, Famiglia Satana, che non è perché ci sono le famiglie realmente indemoniate, ma sono famiglie che esuberano, insomma, diciamo così. Quindi non so, c'è uno stacchetto da lanciare, Alex, tu che sei... Ah sì, lanciamo lo stacchetto, aspetta, il che stacchetto, dai. Silenzio in aula, pronti per lo stacchetto, via. Zitto. I nostri teleascoltatori si saranno accorti che oggi lo stacchetto è leggermente diverso, ma scoprirete che cos'è questa musica soltanto alla fine della puntata. Però lascio la palla a questo punto al nostro caro capo Simone D'Amore, che ci racconterà perché Bambini Satana. Allora, per Bambini Satana noi intendiamo tutti quei bambini che, vuoi per la mancanza di basici paletti educativi, vuoi per avere la sfortuna di essere nati in famiglie, diciamo, che considerano il comportamento animale come una forma espressiva, diciamo che si comportano in una maniera, appunto, come diciamo prima, estremamente esuberante, tanto esuberante gli manca solo la bava dalla bocca, e a volte girano anche la testa oltre che gli occhi, che vomitano, esatto, quindi tutti quei bambini che non hanno nessuna forma di controllo sul loro corpo e sulla loro mente e loro negli altri, esatto. Tu per esempio, non so, ti è mai capitato di vederne qualcuna, caro? Allora, io non c'ho delle cose che mi sono rimaste impresse, quindi dei bambini particolari che mi sono rimasti impressi, però ho dei ricordi di diverse situazioni in cui c'erano questi bambini, spesso sotto i 10 anni, spesso, ma non sempre è sì. Così, diciamo che quando tu vai, non so, vai a mangiare fuori, ti metti seduto, ordini la tua lattughina, la tua calma lattughina, e poi c'è di dietro un bambino che fa le voci in growl, ma non è cantante, allora lì cominci a venirti fuori qualche dubbio sulla umanità di queste persone e di chi le accompagna, no? Certo. E quindi, ah, poi è bello, cioè, no, aspetta, ci sono capitate? Ci sono capitate, perché c'eri anche tu. Spesso andiamo in un locale che sta vicino allo stadio, che organizza le cene per i bambini che vanno lì a giocare a caccia, e lì è proprio un sabba infernale. Lì è un sabba infernale, esatto. Lì te la vai un po' a cercare. Sentiamo invece da Avalon che cosa ci dicono, se anche loro hanno, diciamo, una prima idea su questa forma diabolica di bambini, se anche loro hanno delle, e non più che esperienze, insomma, hanno idea di che cosa stiamo parlando. Allora, sì, prima parlo io per 20 secondi, poi lascio giustamente la palla alla nostra ospitona, gran tettona, Escile tra l'altro. E c'è The Punisher che ci segue, ragazzi. Esatto. L'ultima volta che mi è capitato ero al ristorante giapponese con degli amici, c'erano tre coppie di adulti con relativi bambini che ovviamente hanno utilizzato il playground di tutto il ristorante andando avanti e indietro a fare casino. La cosa interessante è che ogni volta che il bambino correva davanti al nostro tavolo si fermava, ma per annusarci i piatti. Beh, anziché te ci sputava sopra, insomma, cioè, tutto sommato. Infatti, e faceva che puzza, se ne andava. Esatto, fino a che non ci attaccava le calcole. E io non ci ho fatto caso. Annusava, in realtà sputava caccole dal naso. Cioè, così non stava annusando, stava respirando, stava scaccolava. Che okay, sono belle cose. Pussici. Io cosa vi posso dire? Posso dire soltanto che... No, aspetta, adesso presentiamo Pussy C. Pussy Calo, che cos'è Pussy C? Che cos'è? Pussy C è un insegnante della scuola primaria, giusto? Wow, si dice così? Scuola primaria, che figo! Che cos'è la scuola elementare? Primaria? Elementare. Allora, okay, siccome perfetto dire spazzino era brutto, hanno inventato operatore ecologico, no? Allora, adesso dire scuola elementare è brutto, quindi adesso si dice scuola primaria, ok? Perché elementare diceva sarà una scuola per i deficienti, elementare, così, invece primaria, esatto, capito, importante. È come dire ai bambini maleducati scimmie è brutto, allora si dice bambini Satana. Bambini Satana. Bravo, no, bravo, esattamente così. E niente, io sono lì, cosa devo fare? Sono lì e non ne posso più. E vi basti di sapere che quando facciamo il check-in per partire per le vacanze, io sono arrivata a chiedere, dopo aver dato le valigie, quando ti chiedono posto finestrino o non finestrino, io poi aggiungo lontano dai bambini, cortesemente, se possibile. Beh, in realtà, guarda, Alex lo sa, però introduco un altro elemento che alcuni di quelli che ci ascoltano non lo sanno, ma io ho gestito un happy nursery 12-36 mesi. Cioè 12-36 mesi è la durata del lavoro, no, dei bambini che erano dentro 12 mesi, poi morivano, esatto, poi lì, e poi dopo passavano, entravano nel fornello e... esatto. Però diciamo che il problema di fondo dei bambini Satana, e poi dopo ovviamente racconteremo le nostre esperienze, è non sono i bambini Satana in sé, anche se qui poi posso... aspetta fammi, perché questa è una cosa, no, importante, giusto, perché, no, come l'indemoniato non è colpa dell'indemoniato, ma del demonio che è dentro, esatto. Il principio, che poi pure questa è un po' una cosa da sfatare dopo, perché poi ne parliamo, perché tutti dicono sempre i bambini sono innocenti, non te la puoi prendere con i bambini sono stronzi, insomma, diciamo, ecco, bambini, no, diciamo la verità, basta con questa storia che i bambini sono innocenti, brava, perfetto, vedi, e lei basta, siamo d'accordo. Questa che demagogia padre retorica sul fatto che i bambini, l'innocenza, esatto, l'onestà, i bambini sono stronzi e alcuni sono più stronzi di altri, questo è chiaro. Comunque, detto questo, non è appunto colpa del bambino indemoniato in teoria, ma è colpa di chi lo indemonia. Quindi in teoria, se uno dice è colpa della mamma, e la mamma ti dice beh, ma guarda che c'è anche il papà, che sono quelli che ovviamente quando tu gli dici mi scusi, suo figlio mi sta camminando sopra il piatto, mi sta levando le caccole sopra il piatto, per ritornare ad Alex, ti dicono sono bambini, sono bambini. Cosa gli vuoi fare? E qui Marco, che cosa li può fare? Tu che cosa faresti, per esempio? Io sarei indeciso se prendermela col bambino o con i genitori, o entrambi, o far picchiare i genitori dal bambino, o picchiare i genitori col bambino. Col bambino. Che secondo me è anche meglio, perché così capiscono meglio. Sentiamo Pussy allora. Io io sono pienamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Quale è la cosa più bella? Col picchiare i genitori col bambino. Col bambino. Sì, sì. Mamma, che bello, come mi piacerebbe. Sarebbe bellissimo. Una goduria che non vi posso dire. È vero, sono degli stronzi, è verissimo. E quando io, la cosa più bella è vedere quando arrivano le supplentine, quelle belle fresche, belline loro, quelle che vengono, sai, quelle che hanno studiato loro, no? Quelle belle che arrivano con la laurea, no? Arrivano e dicono: ah, ma io ho la laurea, ah, ma io adesso, se io gli do... Ho studiato per queste cose. Sì, ho studiato per questo lavoro, io sì. Sì. Cioè Daniele Giardino che ti dice brava, ma secondo me ti dice brava a prescindere questa cosa. Questo secondo tu dica. È brava a prescindere. Io osservo tipo cinema e dico: prego, accomodati. E tu le vedi ste qui, no? Che li guardano e dicono: oh, ma che carino quello lì! Ti guardano! Oh, com'è carino! Oddio, che occhi che ha quella bambina lì! E io in un angolo, sempre che mangio la mia mele, dico: sì. Tempo dopo 10 che... minuti. Piangono. Dopodiché, non i bambini. Escono fuori e dicono: ma questi bambini sono il demonio. Cominciano a fare: o mam ci va. Sarete portati degli inferi. Esatto. È vero, è vero. Perché entrano tutti guardandoli come se fossero degli. Sai gli orsetti di gomma dell'Aribo? Cioè, questa gente entra, li guarda e dice: mio coccolini. Sì. Tempo 10 minuti le vedi soccombere. Alex, ma leggi anche qualche commento. Aspetta. L'argomento interessa, insomma, tipo Geggio von Matteron dice: picchiare i genitori col bambino non sarebbe male, mentre Carmine dice: ho la sensazione che Pussy la prossima settimana la troviamo nelle pagine di cronaca. Esatto, e poi diciamo che nella disquisizione che abbiamo fatto prima su scuola elementare e scuola primaria, c'è anche sempre Carmine dice: scuola private, giustamente. Comunque, aggiungiamo un altro elemento, perché giustamente dobbiamo aggiungere anche un altro elemento, poi ci abbiamo parlato anche Alex, che giustamente l'ho saltato stavolta, così, tanto per ma tanto gli cascherà pure a lui, quindi insomma cosa gli casca? No, tocca a tutti sta questione, insomma, quindi, che è quello del bambino che ovviamente non solo è un po' scimmia, un po' satana, non solo è un bambino, che cosa ci volete fare, ma si aggiunge il terzo elemento, che è quello che il bambino è intoccabile. Ma è intoccabile, da una parte è anche giusto, nel senso che non è che puoi andare a picchiare il bambino, insomma. Purtroppo no, secondo me ci dovrebbe essere una istituzione di terze parti. Una cosa apposta. Che esatto, e tu li chiami, esatto. Vorresti picchiare questo bambino? No, vorresti, mi serve un intervento. Arriva questo, ceffone, esatto. E va via. Però comunque, nessuno gli può dire niente. Al di là di questo, è il fatto che tu al bambino e qualsiasi cosa succede, arrivano i genitori. A scuola o in altre situazioni, ai Boy Scout, tu a mio figlio gli hai fatto, tu gli hai detto, l'hai guardato storto, e questo è ovviamente genera ancora più frustrazione, innanzitutto, perché per i professionisti, un buon esempio, poi... e ancora maggior satanismo nel demone che è dentro il bambino, esatto, Marco, perché poi dopo viene difeso, ci vedi, non mi possono fare niente, lo vedi, maestro, tiè, no, così, vengono col braccio sul fianco e ti dicono: la mia mamma ti vuole parlare. Mamma mia, una cosa del genere? No, questo no, addirittura. Cioè, mandano avanti la bambina. Mandano avanti il ragazzino. Che schifo. Che schifo. Vengono con la. Sai il braccio appoggiato sul fianco? Sai, i pugni appoggiati sui fianchi e ti guardano mezzo sorridenti. La mia mamma ti vuole parlare. E quale sarebbe la risposta ideale di una ipotetica pussicalore che risponde alla bambina che fosse libera di parlare apertamente al genitore? Insomma. Sono lì, ma praticamente. A me non succede mai, posso quasi mai. Ti vengono, perché non ci vogliono parlare. Io ho già ucciso di bestemmie, no? Ecco, io ho imparato negli anni a. Come posso dire? Tenere le distanze. Io incuto timore, quindi questa cosa a me non succede quasi mai. Salutiamo anche Nicola Lovecchio, scusa, vai. Ho detto che siccome io incuto un po' di timore, questa cosa non succede a me, non succede quasi mai. Quando succede, niente, la risposta è... il mio orario di ricevimento è questo, punto. Alex. Io sono estasiato da tutto questo. Come una persona che purtroppo, o per fortuna per il mondo, ancora non ha non si è riprodotta, non ha procreato, sono molto curioso. E fino all'altro ieri dicevo: dovete schiattare tutti i bambini di merda, voi e i vostri genitori di merda. Adesso che sto per valicare il valico, mi dico: ma io riuscirò a essere meglio di questi qua, di questi stronzi, oppure no? Ah, non lo so. Non lo so, però per fortuna c'è, visto guarda, che abiterò vicino a Pussy Calore, verrà tutti i giorni a bacchettare me prima di bacchettare i miei figli. Cioè, guarda, già tu sei abbastanza consapevole, perché tu, cioè, sei una persona che sta vivendo il disagio. Secondo me questi genitori che cercano di educare, cercano di non educare i figli. Non vivono il disagio, cioè il loro disagio cercano di spostarlo altrove. Quindi gli danno tutto quello che vogliono in casa per farli stare buoni, per non farli parlare, per non farli rompere il cazzo. E poi dice: vai a scuola e sfogati come una scimmia di Satana con il quale sei. Esatto. O scuola o ovunque altro. In realtà lo fanno anche a casa, diciamoci la verità. Allora, il problema di fondo, e qui facciamo un piccola parentesi seria, è che educare i ragazzini è impegnativo, ok? Quindi è abbastanza faticoso. Intanto girano degli spettri in studio, così. Lascia stare. Anche gli spettri, non riguardare. Sono spaventato, si vede la porta che si apre, così. Ed è impegnativo. Quindi è una cosa abbastanza e quindi si preferisce piuttosto. Pensa, che aspetta, è 24 ore al giorno, poi 365 giorni l'anno, quindi c'è, cioè, una cosa che praticamente, per carità, è più di un lavoro, insomma. Lo so. Però la sera, capito, invece di dire, che ne so, adesso faccio il mio ruolo di genitore, si dice: vabbè, senti, tanto stasera mi sono rotto il cazzo. Esatto, cioè, rotto non mi rompere il cazzo, il cavo, oppure roba. C'è anche il fatto che comunque molti si sposano giovani, devono assolutamente fare il figlio, e poi quando fanno il figlio giustamente non sanno neanche un po' più come gestirla la questione. Perché io ribadisco, comunque sono sacrificata per far figlio, donna ballando invece. Esatto, bravo, perché poi ci arriviamo anche qua. Invece Alex c'ha la forza, ecco, appunto è arrivato giustamente il nostro assistente che ci ricorda che noi abbiamo dei vicini di casa che sono molto rappresentativi. La fortuna di Alex invece è il fatto che lui è grande, ok? Non ci è arrivato anche presto. Grosso, anche grosso, quello grosso, spero, insomma, per chi di dovere, però insomma voglio dire è una questione che lui comunque bene o male si può essere fatto già un'idea, no? Su quello che è il dover fare il genitore, no? Poi dopo è riuscirci o non è riuscirci, sai, in realtà nessuno lascia imparato, il problema è provarci. Qui c'è gente che neanche ci prova, no? No, perché tu hai semplicemente fatto il figlio, lo metti lì, quanto è carino, quanto è bellino, guarda la televisione e non stai dico zitto. Io e stai zitto, perché tu vedi mo gli girano le palle, perché sentiamo la maestrina, sono frustrato di merda. Ma in realtà c'è anche la cosa opposta, cioè ci sono famiglie che li sovrastimolano e sono un incubo anche quelle. Sì. Però secondo me anche la sovrastimolazione, secondo me, è il rischio. Cioè, se ci fai caso, può essere. No, infatti, lei dice proprio questo: cioè, proprio che praticamente troppa importanza, sì. Troppo, no, troppo, troppo. Poi dopo ti arrivano a scuola che sembrano Sheldon Cooper. Cioè, presente? No. Ah, tu dici in quel senso lì? Sì, come no. Arrivano che sono squinternati e poi sono quelli che sanno tutto, che fanno tutto. Sì, è presente. Non Sheldon. Perché è mio figlio, maestra, ma come mio maestra, figlio. Maestra, cioè. Maestra, maestra. È vero che il. No, non è vero. È vero cazzo. Che l'atomo è la parte più piccola che c'è in natura. E tu dici: ma sei in seconda elementare, ma vuoi andare a giocare, cazzo? Esatto. Vabbè, quelli sono. Poi tu parli anche un po' le tu parli dei quark, esatto. Che sono particelle subatomiche. Se ti è col dito medio, vaffanculo, bambino di merda. Oppure il bosone di X, dove lo mettiamo? Esatto. Sai come Sheldon? Stai sparando di una cosa e lui comincia a alzare la mano: maestra, maestra, maestra, lo so. E poi dice cazzate, ovviamente. Però crescono. Se bambino dici cazzate, per forza. Ma tu glielo dici? È una cazzata? Oppure dici: no, bello, no, bravo. E allora gli dico: allora, di solito è così. Mentre lui è così, con la mano alzata, dice: maestra, maestra, maestra, maestra. Io lo guardo con l'occhio, sai, tipo a fessurina. E gli dico: tu sei sicuro che devi intervenire? Pensaci bene. È una domanda. Minando il loro senso di sicurezza. Esatto. Però. E dico: è una domanda. Una generazione di insicuri. È una domanda. o è un raccontino? Perché se è un raccontino non me ne frega niente e sta interrompendo la mia spiegazione. Che è più importante di te. Esatto, è di tre quarti del condominio tuo. E se è una domanda, sei sicuro che c'entri con quello che sto dicendo? Allora la smetti, cioè, vedi che la mano comincia a scendere e lui ti guarda e dice forse no. Ecco. Guarda, io ho una cugina di 60° grado, dico così semplicemente per sviare un po' l'indirizzo, che, per non pensare che è quella ma piuttosto che un'altra, che c'ha questa, c'ha una figlia che gli fa fare mille cose. Anche, come posso dire, come dici te, anche sovrastimando le potenzialità di questa figlia, perché poi non è fisicamente, forse non è fisicamente neanche adatta a fare una mezza idea. Esatto, cioè nel senso che non può fare la danza classica. Sì, abbiamo capito. Un gnomo, insomma, cioè nel senso una creatura senza una conformazione reale, no? Un po' come il pinguino di Batman. Esatto. No, un po' di meno. Però diciamo, facendo questo. Però non è, secondo te, un po' il sintomo dello stesso problema, cioè quello di non sovrastimarli, sovracaricarli per non occuparsene direttamente? Sai come si dice? Ogni scarafone è bella mamma sua. Quello sempre, quello va e bene. Quindi? No, non è... non lo so, io non la vedo così, cioè non mi sembra che li sbattano di qua e di là per non occuparsene. Li fanno fare 10.700 cose perché, perché il figlio può. Perché è talmente intelligente che poi si annoia. Perché viene a riempire la settimana. Perché così. Io. Che gli altri lo fanno perché lui no. Robe così. Qui, sì. No, ovviamente. No, passiamo anche a Alex, così almeno dice pure un po' la sua. Poi leggiamo magari qualche commento. Qui ci sarebbe stato bene un elemento di cronaca che noi abbiamo deciso di evitare. Ok, cioè nel senso che quindi lo bypassiamo. Però abbiamo visto anche recentemente gente che invece di star zitta comunque commenta sul proprio figlio che c'ha il quoziente intelligenza superiore, no? Nel senso che. Voglio dire, certo, può fare le cazzate, però può essere anche che ce l'ha sto quoziente di intelligenza, però insomma, diciamo che l'opinione pubblica si è fatta un'altra idea. Certo, poi, ma molti serial killer hanno il quoziente intellettivo, ma io ne ho. Io ho potenziali, sì. Li ho visti e ce li ho anche adesso. Anche uccidono io. Gli animali dei vicini. Anche io ce n'avevo uno che era terribile, era veramente terribile. No, ce l'ho, io ho un Dexter. Tira fuori la canzoncina. Non ce l'ho più. No, non c'è. Esatto. Nini. Madonna, chi era? Scusa. Alex, dici un po'. La canzoncina di Dexter. No, ce l'ho. Ha messo le forbici con la punta, cioè la punta delle forbici rivolta contro il collo della sua compagna di banco. E praticamente la mia collega è intervenuta a pelo. Tu no, però. Vabbè, non c'ero. Non c'ero, quando ci sono io non respira. Forse per quello gli devi dare più. quando siamo usciti. Ha detto che quando sono usciti ha fermato la mamma per dirglielo. E la mamma ha detto: signora, ha messo le forbici, insomma, dalla parte della punta al collo di. È colpa sua che gli ha dato le forbici. E lei l'ha guardata e gli ha detto: ma che bambina era? Chi era? Come? Io ti ho appena detto che a me sta tentato di. Sì, questo è il problema. Perché a secondo di chi è la bambina potrebbe essere stato giustificato. Ha detto Giuseppina e la signora ha detto: allora, litigano sempre, non è un problema. Capito? Ma la stava sgozzando. Un conto è quando si tira i capelli da bambino. Comunque, quando Alex, dicono dalla nostra chat. Sì, l'ho già alzata. Che Pussy è bassa. Niente, Alex, vai tu un pochino, poi leggiamo pure qualche commento. Insomma, intanto leggo i commenti. Il commento di Danilo Giardino che dice: Pussy si chiamano procacciatore di consensi e secondo lui vanno stroncati. Da quanto ho capito, Danilo insegna alle medie, che invece si chiamano adesso? Terziaria. Secondarie sono le secondarie di primo grado. Secondarie di primo grado, come se fosse Antani. Carmine Puccio Consol dice che si dichiara colpevole, che è stato mandato in prima elementare a 4 anni. Probabilmente proprio non ti volevano proprio bene i tuoi genitori. Povero. Mi spiace. No, a 4 anni non ci credo, dai. No, no, esatto. Ha fatto la preprimina, insomma, come per il 18esimo. Per il 18esimo, che sono le tipiche cose che fa Alex Raccogliato. E che anche quello lì è il simbolo proprio di far crescere i bambini minchia. Proprio. Beh, bisognerà parlarne. Ma quello sì, sicuramente qui, ne parleremo. Per il 18esimo è la prossima cosa di cui parliamo. Diciamo, secondaria di primo grado, ci conferma Danilo Giardino. Poi, che cos'è che insegni alla secondaria di primo grado? Ci risponderà fra un attimo in chat. Ti vorrà 6-7 allora, mesi, insomma. No, esatto. Però ci sono delle notizie che abbiamo postato. Beh, aspetta, fai parlare. Che però ne parliamo dopo, Alex, perché in realtà dobbiamo far parlare Alex D'Amore. Alex D'Amore dice, fondamentalmente sta chiedendo a voi signori che ne sapete più di me, soprattutto a Pussy Calore che ne sa molto più di me, se l'approccio iperprotettivo, di super stima nei confronti dei giovani fanciulli deriva da una... Da cosa deriva secondo te? Perché io continuo a dirmi, cioè nel senso... Donna che... Marzullo. Aspetta, no, aspetta, ti dico, io... Fatti una domanda. Ho questa visione che, insomma, le persone che hanno un certo livello di intelligenza o consapevolezza si fanno un sacco di dubbi, quelli che non arrivano a un certo livello di intelligenza e consapevolezza vanno per assoluti, per cui non hanno dubbi, il che è molto preoccupante, e di conseguenza, nel senso, il fatto di non avere dubbi non ti mette dubbi né su te stesso né sulla tua prole. È così secondo te oppure sto ipersemplificando? Ma si sta facendo i cazzi suoi. Sì, io mi stavo aggiustando un braccialetto e l'ho ascoltato un po' poco. Però sì, penso che tu abbia ragione. Hai ragione, vero, bravo, cioè. Alex, bravo. Grazie, bravo. Ho vinto, viva me. Tanto Daniele Giardino ci dice che insegna matematica e scienze. Che bello, io scienze lo odiavo, ma matematica l'adoravo, per cui... E dolore, non... E dolore, insegna anche... No, io invece che ho fatto lo scientifico, matematica niente, quindi... Ci consigliano, visto che Pussy si sente bassa, di aumentare la scollatura. Probabilmente potrebbe funzionare. Sì, che ascolta, più scollata di così, e poi c'è, cioè, nel senso, la mia ragazza mi percuote per... beh, lì si fa sul fetish maso, che potrebbe piacere al genere. Danilo, sì, vai sul canale... Scusa, vai sul canale di Telegram così vedi la scollatura. Cioè, Madonna, quante storie. Non sarà mai. Ascolta, però effettivamente. Allora, dai, mi hai visto peggio, mi hai visto peggio. Ho visto la scollatura anche io. Che arrivava l'ombelico ed eravamo in chiesa. E non era neanche la tua festa. Eri lì per altri motivi. Vabbè, succede. Non è colpa mia. Lo fanno. Mi disegnano così. Ma torniamo ai bambini a questo punto, giusto? C'è una notizia. Pensa ai bambini, porco due! C'è una notizia. Ce ne sono diverse. Se voi andate a vedere, però in realtà ne abbiamo preso un paio. Perché... Beh, non è che possiamo andare. No, perché noi non siamo un telegiornale, un giornale, un altro giornale. Siamo una manica di cialtroni che dice bestialità su cose e persone. Se me la inquadri, magari riesco che anche. Cosa ti devo inquadrare? No, praticamente quella notizia del ristorante che ha vietato l'accesso ai bambini. Ah, io sono d'accordissimo. Io sono d'accordissimo. A Roma. Quindi quando verrai a Roma ti portiamo a causa di episodi spiacevoli dovuti alla mancanza di educazione, in questo locale non è gradita la presenza di bambini minori di 5 anni. Grande applauso. Assolutamente. E dirò di più, io un giorno aprirò un ristorante proprio per mettere un divieto di ingresso ai bambini e ai vegani. Quindi proprio è. Vabbè, vegani è semplice, basta che metti la ciccia ovunque. Esatto, non c'è bisogno. Non si mangia neanche l'insalata, c'è qua dentro. L'insalata c'ha la carne dentro. Sta il verme dentro perché sei stronzo. Noi facciamo l'insalata con il carne dentro. Col verme. Con il carne il dentro. E questa è una. Poi c'era anche l'hotel solo per famiglie, però quando tu sei pronto ad accogliere con le stanze imbottite per i bambini Satana, perché non prendere anche i bambini, insomma, tu sai, c'è l'apposita stanza imbottita con la camicia di forza, lo metti dentro. Deve essere un'immagine fantastica, tu dici, questo, chi siete? Mamma, papà e bambino. Ah, ok, mamma e papà c'hanno la matrimonio, il bambino c'ha la stanza. E io mi immagino sta stanza con tutte le pareti, però quelle imbottite, quelle soffici, no? Quelle... Però tutto bianco, con una luce smarmellata. Esatto, capito? Cioè, tipo una cosa tipo THX praticamente, detto che capisci. Che sarebbe un film di George Lucas, siamo ignoranti, che cazzo ne so. Ah, quello non è THX. No. proprio menace. No, in realtà lui ha chiamato THX proprio ufficialmente per dire che era l'esperimento di Tomlinson Holman, però in realtà perché era il nome del suo primo film, che era THX. C'è come il grande raccordo anulare. Esatto. Dunque, e c'è un'altra notizia. Notizia per questa del 16 e del 13 marzo di questo, di quest'anno, quindi di pochi giorni fa, dall'Adige.it: su bus urla e sputi, gli autisti sono esasperati. Autisti del 13. Questo detto, c'è un esorciccio per bambino. Sì, sì, che poi sono bambini dagli 11 ai 14 anni. Esatto. Perché lui e non che sono succede? Più bambini quelli lì. Quelli già hanno. Però sono considerati occhio, bambini. Comunque minore. Sono ragazzini che, però, se per bambini Satana sempre so. Comunque Satana so. Ma quelli sono più. È più normale alle medie. Cioè, che le sputino, medie prendere un lanciafiamme a terra. Esatto. Alle medie pigiama con le cinghie e li devi uccidere tutti. È più normale. Perché praticamente sono sputi. Sta ragazza insulti. Ma rivolti un'altra volta. Esatto. Pussi, praticamente, quando ha visto il film I figli degli uomini, ha detto: cazzo, che bel film! È il film di Natale per me. Cioè, quelli delle medie si sa. D'altra parte non c'è salvezza, non c'è speranza, no? Poi dopo magari escono dal tunnel delle medie. Ma quelli, gli orsettini, gli orsacchiottini delle elementari, che io le chiamo ancora elementari, cazzo, lì sì che si potrebbe fare qualcosa. Secondo me sono ancora salvabili, ogni tanto mi ma fanno quando tanta vanno a casa, pena, poi capito? Dopo non c'è, capito? Il problema ma è da lì. È tutto inutile, è tutto inutile. È inutile. Allora io ormai negli anni ho imparato che io devo sopravvivere e devo lavorare. Quindi, che è importante. Nel mio regno si seguono le mie regole, comando io e si sopravvive, e quindi io riesco a finire la settimana. Dopodiché quello che succede a casa non cazzi, mi riguarda. Cazzi loro. Sì, io infatti più volte nelle riunioni dei miei genitori lo dico, no. E dico, non dico cazzi vostri, ma dico noi non abbiamo la bacchetta magica e raccogliamo il frutto che voi avete seminato. Vai, leggi quello che dice Carmine. Carmine suggerisce di usare i dardi tranquillanti di Metal Gear Solid. Che sarebbe. Vabbè. Allora, io direi che a questo punto andiamo alle esperienze personali. Partire da Alex, quasi, così almeno. Poi tu vuoi. No, vabbè, no, io poi racconterò quella che hai vissuto anche tu. Racconteremo insieme. Ognuno racconta la sua. Sai? Noi qui avevamo lo zoo qui al quartiere mio, quindi possiamo andare. Dove sparo, io vado tranquillo. Vai, Alex. Ma esperienze personali veramente vicine non è che ne abbia. Vabbè, una cosa che veramente ti ha fatto imbestialire, cioè quel bambino è talmente scimmia che ti ha fatto proprio perdere l'estate. Guarda, ti dirò, cioè, ho alcuni amici di famiglia che hanno dei bambini relativamente piccoli, e però tendenzialmente arrivati a un certo punto quasi naturalmente io mi dissocio dalla cosa, per cui guarda, non ci sono stasera, guarda, per i prossimi 3 anni sono in Islanda a fare una ricerca sugli orsi polari dell'Antartide, ma l'Antartide sta a sud, vabbè, stessa roba, l'importante è che non ci vediamo. Tendenzialmente io ho preso veramente tante distanze nei confronti di queste cose, infatti pur avendo lavorato tantissimo con i bambini come regista di spot televisivi di giocattoli e lavorandoci piuttosto bene, tendenzialmente io non... Vabbè, ma quelli sono addomesticati, dai. No, allora ti dico, io con i bambini ho lavorato su 10 spot, ce ne sono 8 di bambini che sono eccezionali, dolcissimi, bravissimi, educatissimi. Ce n'è uno normale, cioè uno che praticamente un po', e un altro che pensa di essere Robert De Niro incrociato con Matthew McConaughey. E ti giuro, questi sono quelli che veramente fanno perdere un sacco di tempo. Infatti alla fine l'ultima volta gli ho urlato, ed è la cosa interessante che c'era la mamma di questo qui che ha detto non sapeva come muoversi, e la mamma dell'altra bambina che ha detto hai fatto bene, vaffanculo. Cioè vaffanculo non ha detto, però era scritto nella sua, cioè, perché ma in romano? Lo dice proprio in romano? Che è importante. No, sono brianzoli tendenzialmente. No, perché tendenzialmente, cioè, sui set viene sempre, deve essere accompagnato il bambino con almeno un genitore, giustamente. E poi sono alcuni genitori che appunto puntano a farli diventare dei modelli, appunto, io li chiamo i Pier Cosso, perché appunto mi rende proprio l'idea del bello ma che non sa dire un cazzo, e questi qui sono un pochettino per pericolosi. Però devo dire la verità che facendo come Pussy C che ho sbroccato, nel senso, io come regista sono sempre stato uno piuttosto silenzioso. Quando sbrocco, però, poi per due ore regna un silenzio sul set che neanche io so come. Infatti, io ripeto, ho paura per la nostra cara amica comune Miki Contro, che quando mi incazzo forte. Lei si incazza costantemente. Io invece mi incazzo a Spike, cioè proprio ho la delta di Dirac che quando vuole. Ma tiri anche le cose per terra? Mi è capitato un paio di volte, ma ero molto più giovane. Ho rotto un paio di piatti, ma son sicuro di aver fatto bene, devo dire la verità. Tutto sommato. Sì, allora, sì. Prima di passare a Pussy, sentiamo Marco. Marco. No, io in realtà mi hai fatto venire prima suggerendo quella persona, quella bambina dolce e simpatica. Che ho capito. Una volta siamo praticamente usciti e c'era una pioppata, diciamo così, perché comunque poi alla fine può succedere che i genitori si rompono talmente il cazzo che posso fare una premessa? Sì. Se tu vuoi appioppare un ragazzino, non lo appioppa a Simone D'Amore. Manca a Marco D'Amore. Perché Simone D'Amore non guarda in faccia a nessuno e c'ha Hitler dentro quei ragazzini. E quindi praticamente ci hanno appioppato questi due ragazzini, di cui una era questa simpatica e dolcissima bambina che è praticamente dolce come, non so, piccolo gremlin probabilmente, dopo che ha mangiato a mezzanotte. Quindi che è successo? A un certo punto si è impuntata che voleva l'acqua, ma si è impuntata nel senso, è venuto il cameriere, che già stava voglio l'acqua, è venuto al cameriere: che cosa volete? Vuole l'acqua. E noi ci siamo presi le nostre cose, però è normale che non è che vanno dentro e ti portano il bicchiere d'acqua, ti portano tutto insieme. E questa ha cominciato a sbroccare: voglio l'acqua, ma voglio subito, la voglio adesso subito. E piangeva. E io a quel punto avrei potuto utilizzarlo per come battipanni, però gli ho suggerito semplicemente di bere le proprie lacrime, perché tutto sommato perché non ti bevi le tue lacrime? Esatto. No, poi c'era il fratello che invece subiva la cosa, no? Dice, no, vi prego, c'ha sete, io vi prego, non la sopporto. Mi sono guardato mia moglie e ho detto: il primo che si alza e gli va a prendere il bicchiere d'acqua lo prendo a calci fino a domani. Non si è mosso più nessuno. Io credo che io non mi sarei alzato per tutto l'oro del mondo, a prescindere. Però vabbè, sai, persone un po' più sensibili che dicono. E vabbè, queste sono cose abbastanza che succedono. Ma la cosa fantastica è quella, insomma, della vita condominiale. La vita condominiale è una cosa importantissima, perché insomma, ci sono delle regole da rispettare che nessuno mai rispetta, ci sono dei comportamenti, diciamo, da osservare che nessuno mai osserva, e se ti capita nella vita, insomma, ci sono delle equazioni, delle casualità, ma se ti capita nella vita di vivere sotto una famiglia che c'ha i bambini piccoli, ti ha detto male. Ti ha detto male perché è raro, diciamo, le condizioni nelle quali questi bambini sono educati, insomma, oppure hanno la casa piena di tappeti, potrebbe anche succedere. Intanto, scusate se vi interrompo, Carmine ha lanciato il nuovo hashtag della giornata, secondo me, che è siamo tutti Erode, e dal mio punto di vista ha vinto. Facciamo ridere Pussy. No. C'è anche un momento di violenza fisica, non vogliamo vedere queste cose, insomma, non vogliamo sentirle, non sono belle cose. Se si sente è spanking, comunque, attenzione. Ma che cos'è? Dai, che non so cosa significhi. Vabbè, guarda, su YouTube c'è proprio un canale apposta. Ok, perfetto. Credo, uno che solo. Credo se ce ne sia, o meno uno. Insomma. Insomma, ci sono dei bambini che corrono coi talloni, forse strillano, forse corrono con le ginocchia, con i gomiti, dopo che gliele hai spezzate. Però la cosa più bella, dopo anni e anni, insomma, dei bambini Satana, che quello che ovviamente Pussy definisce che fuori dall'ambito dei bambini che diventano ragazzini, così, un ragazzino di 12 anni che casa della madre, mentre che la madre era sul balcone, lui dice: me apri, vabbè, non mi piace che ti comporti così, non ti piace a te, ti piacciono solo i cazzi. Porco. Perché aggiungiamoci anche che lui ha parcheggiato qui. Esatto, ha parcheggiato lì. E sono rimasto così, cioè nel senso ero più per affacciarmi e battergli le mani o farlo sparire la faccia della terra, cioè non so, oppure cosa... farlo sparire la faccia della terra battendogli le mani, esatto. Perché comunque, cioè comunque, che madre sei, voglio dire, che, ma, e lei ma come, no, non si dice, cioè, non si io dice. Posso raccontarvi dei miei trascorsi da bambino Satana, perché tutti siamo bambini Satana da bambini. Io non sono mai stato bambino, però eravamo bambini Satana perché facevamo cose senza pensarci. È normale, forse tipo. Più da grandicello. No, io quando avevo 4, 5, 6 anni che c'avevo le Marco biglie, ti apprezza. Grazie, vedi, grazie. Ne farò tesoro dell'apprezzamento. C'avevo le mie biglie e di tanto in tanto, che ne so, le facevo cascare per terra, mi cadevano. E allora lì interveniva mia madre con il classico rimprovero e alla seconda era il ceffone. A sganassa. A sganassa. Perché quella funziona la sganassa, insomma, quella c'ha il suo valore, il valore educativo che c'ha la sganassa dai genitori, vale 100.000 parole. Anche perché poi ne basta una e dopo passano le parole successivamente. Invece no, adesso c'è il buonismo, no, i bambini non si toccano. I bambini niente si toccano. Ma è un casino adesso. Cioè, nel senso, io le mie sberle le ho prese. E me le sono meritate tutte, tutti quanti abbiamo. Io me le sono meritate tutte, anzi, secondo me me ne meritavo anche di più. E però dico, cioè, a oggi, invece, 30 anni dopo, si può? Non si può più, cioè nel senso è diventata un'altra cosa. Ma chi ha detto che si può? Il figlio è tuo, se tu pensi di dargliela, gliela dai e basta, è chiuso. Ovviamente non lo devi prendere a sprangate sulla schiena, no, quello è proprio dei casi più gravi. Allora no, aspettate, fermi insomma. Tutti, perché sennò poi dopo il vento è cominciato. Allora, diciamo così, che tendenzialmente, voglio dire, se sei un bravo educatore... Non ci dovresti arrivare. Potrebbero anche, potrebbe anche esserci il caso che non ce n'è bisogno. Io per esempio... non ho mai alzato le mani, cioè nel senso al massimo ho alzato la voce e a volte basta se sei comunque, ma se sì, c'è... è vero che basta, però è vero pure che ci sono certe volte che a volte ci può stare, cioè dipende da chi hai davanti, c'hai il prurito, certe volte c'è proprio il prurito sulle mani che dice mi prudono le mani cioè, e cerchi di sta buono perché insomma non sai neanche con chi prendere, perché io ci so certe volte veramente dove vedi delle situazioni che tu dici vabbè. Proprio recentemente stavamo proprio io con mia moglie, ho detto vabbè, è una serata tranquilla, Matteo sta dai nonni, ah che bello, ci mangiamo una pizza, una tavolata di sei persone con un bambino, è bastato quel bambino, cioè è una cosa terribile, cioè, ma poi io mi domando anche i ristoratori, comunque la gente che lavora, che stanno comunque lì a lavorare, come fanno a dover essere costretti a sopportare il fatto di non poter neanche lavorare bene, perché poi chiaramente, cioè nel senso, con un ragazzino che corre dappertutto, zompa, fa cascare le cose, e poi si mette pure in impossibilità di farsi male, perché se poi casca, ma se magari per male. Te, ma per il ristoratore, poi sono pure cazzi per il ristoratore. Non capito? È detto che è così, perché c'è un'assicurazione. Perché, esatto, se c'è l'assicurazione, comunque tu paghi quando è dimostrato oggettivamente la tua responsabilità, quindi la tua negligenza. Se io non sono responsabile di quello che è successo, ma sono responsabili i genitori perché il ragazzino lo tengono seduto, non c'è il risarcimento. Quindi attenzione, questa cosa è un po' particolare, ma non è che dobbiamo incitare comunque, a far morire i bambini. Comunque però te fanno la causa, perché comunque ci proveranno, capito? Sono sempre rotture le palle, perché poi mai a dire ai genitori. Secondo me quel ristorante è una stronzata, ma ha fatto una cosa. Lo so, perché sti cazzi. Sentiamo invece l'esperienza, diciamo, che ne so, l'episodio proprio più particolare della nostra carissima amica, così almeno. Cosa volete? Un episodio professionale o di vita reale? Anche no, anche extra. Vita perché reale. Forse Uff! Non so, potrei dirvi quando. Ma quando sono uscita dall'ospedale per un ricovero che avevo avuto, quindi ero in convalescenza, ero un po' provata, ero estate, e mi sono fatta portare al mare 3 luridi giorni, cioè alla fine erano 3 giorni, in Liguria, dove vuoi andare, tanto è qua vicino, andiamo in Liguria. E bellissimo, è presente quei posti con gli anziani, così. Io avevo il lettino a fianco alla staccionata del mio bagno e a un certo punto ho sentito un vociare che veniva da lontano ed era sempre più vicino e purtroppo era una colonia. Non era la morte, chiaramente. No, era una colonia estiva. No, è come la morte, la stessa cosa. È la morte fatta persona. E si sono sistemati a fianco a me. c'è nel bagno a fianco appiccicati a me. E vabbè, io ho cominciato a innervosirmi. Il mio fidanzato, che mi conosce, faceva: stai calma, non sta succedendo niente, stai calma. Dicevo: cambiamo posto, te lo dico, cambiamo posto, qua finisce male. No, no, ma stai calma, non succede niente. Va bene, allora mi sono sdraiata a prendere il sole e in poco tempo tre bambini hanno iniziato a scavare una buca di sabbia di fianco a me e la loro sabbia di merda è finita su di me, sulla mia pancia, ovunque. E niente, ho avuto una piccola... Ecco, ti dico solo che i nostri ascoltatori già stanno prendendo strane direzioni. Mi sono alzata e gli ho detto: questo è tipo l'inferno. Prendete immediatamente la vostra roba e cambiate posto, perché io... Ma io ho detto con gli occhi socchiusi a mo' di... Oppure sgranati con sgranati. Il sangue che colava. No, sgranati, e il tono di voce non era questo, era: prendete immediatamente le vostre cose, andate da un'altra parte, avete capito? Perché qua c'è gente che vuole riposare e non è possibile questo. Mi avete riempito di sabbia, accidenti. Giustamente dovrebbero proprio dire: ma stai a mare, è normale che e ti si riempi di sabbia. E detto: ci scusi. E io ho risposto: scusavo anche prima, ora prendete le vostre cose e andatevene immediatamente prima che io venga di lì. E loro hanno cambiato posto, però vedi, si sono allontanati perché la spiaggia era grande di lì. Poi per esempio, perché lei glielo dice anche in maniera educata, certo. Valenzi, che cosa insegni? Che, qual è la tua letteratura? Poi è arrivato storia, un altro bambino più piccolo in quella buca, vicino a quella buca, c'è caduta, e uno più grande è andato a prenderlo di corsa e gli ha detto: vieni via perché quella signora si arrabbia. Allora Pussi, qui un ascoltatore ci dice: potevi menare i bambini con altri bambini, giustamente. Ormai questa è l'idea. E quindi Geggio ha vinto anche lui. Geggio, Geggio von Holt Matterhorn. A me viene in mente: avete presente l'ultimo film, il fan film di Guerre Stellari, quello su Darth Maul, che è uscito qualche giorno fa, che ha fatto il giro di internet? No, anche no. No, no, potremmo farlo. Vabbè, per Ridate c'è tempo perduto, però. Vabbè, potremmo, insomma, guardare. Praticamente sono 15 minuti di combattimenti con spade laser. Io mi immagino un 15 minuti di lei che prende bambini e li scaglia su altri bambini. Modello la scena, la scena di Matrix 2, in cui c'è Neo che batte, che combatte con 250 agente Smith. Lei che combatte con i bambini, continua ad arrivare, lei continua a lanciare bambini sui bambini. Bellissima questa cosa. Magari, no, comunque niente, ma questo è uno solo uno dei mille. Infatti il mio fidanzato era, che è adesso mio marito, molto preoccupato. Lui ha sempre paura, ha sempre paura di finire picchiato dai padri, sempre. Cioè, ma poi lo vedi, colpa tua poi, esatto. Sì, perché tutte le volte mi dice: ti prego, non farlo. Mi tiene per un braccio e mi dice: non farlo, ti prego. E però io non ce la faccio. E non ce la faccio. No, perché io leggo i commenti, scusate, però. Gaggio von Matterhorn dice: Dart Pussy Bambini Awakens. Che è il nuovo film Guerre Stellari. È il prossimo film di Guerre Stellari, fantastico. Va bene, ragazzi. Il bambino laser. Ragazzi, io direi che, insomma, vabbè, se non avete altre cose da aggiungere possiamo andare alle altre rubriche finali. Faccio giusto la domanda: secondo voi, quindi, bisognerebbe tornare al ceffone? Sì, ok, perfetto. Ma non senza la buca, non abusando, per carità, non abusando. Perché, cioè, se io avessi fatto una di quelle perché cose, una parola che è poca, fare, due so troppo. Mia mamma mi avrebbe fatto fare la Salerno Reggio Calabria con una centra. Cioè, andata e ritorno. Con una centra, con una sberlone. Una sganassone. Una sganassa. Bene, allora, invece parlando di altri argomenti, prima di andare invece alle rubriche quelle un po' più focalizzate, c'è una questione: vogliamo ammazzare di bestemmie. Visto che abbiamo ammazzato di bestemmie Abrams nella prima puntata, scusate. Vai, allora, siccome che Pizzi perché... sta morendo, sta morendo di bestemmie in questo momento, ma tranquillo. Sta morendo di rutti. Anche. Noi abbiamo già ammazzato George Abrams e abbiamo deciso di andare all'altra parte della barricata. Della barricata, ma in realtà lui sta entrambi. E quindi andiamo a trovare il buon vecchio Bill. Non anche Bill, detto William Shatner. Non Bill Adama, ma Bill Shatner. E praticamente ricordate il fatto che non era andato al funerale di Nimoy perché stava facendo altro? Una cosa di beneficenza, non si sa, non si è ben capito che cazzo stava facendo. Bene, per celebrare questa cosa, lui ha deciso di farci anche un libro in cui racconta la sua praticamente amicizia, quindi decenni di amicizia appunto con Leonard Nimoy. Immagino che poi quei soldi si ciuccerà lui. No, quindi, però posso dire una cosa, cioè, molti, posso dire il titolo. Vai. Si chiama Leonard, My 50 Years Friendship with a Remarkable Man. Incredibile, eh? I miei 50 anni di amicizia con un uomo di riguardo, un grande affascinante. Che non sei andato al funerale. Da cui non sei andato a fare il funerale. Funerale. Una persona che conosci da sempre, praticamente. Ci ha passato 50 anni, capito? Ma io te lo sai ancora. Guarda, di questa cosa ne volevamo parlare un po' di tempo fa, ma poi non l'abbiamo mai fatto. Scusatemi. Queste sono le bestemmie dei bambini sani. Esatto, e questo è il modo di starnutire, ma non è vero. È perciò cercavo di trattenerlo in qualche modo. In realtà ho spruzzato mezza stanza, ma non fa niente. Infatti, comunque, avendo la pioggia dorata. Per William Shatner, che per me è stato insomma una leggenda, un mito insomma della mia infanzia, una cosa del genere mi ha fatto un po' schifo, devo dirlo. Quindi non so se siete tutti quanti d'accordo, ma una bella ammazzata di bestemmie, Bill, che tanto poi è il prossimo, Cioè, quindi, tu lo sai che prima o poi. Non è rimasto quasi nessun altro. No? Cioè, ci sei rimasto te. Rimasto Sulu. E Sulu che vabbè. Chekhov. Vabbè, Chekhov era ragazzino. Quindi vabbè. Però mi sa che lui li seppellisce tutti, Che William, nonostante il Barbon poi, che il Barbon lo tiene in vita. Bene, a questo punto io direi che possiamo andare al sangue del tapiro se Alex ha il pulsante pronto. Ok, siete pronti per la musichetta? State in silenzio. Eccoci qua per la nuova rubrica, cioè la stessa rubrica di prima, che è quella del sangue del tapiro. Vabbè, basta, quanto riveremo. Era diventata una cosa un po' ridondante. No, in realtà adesso ci dicono dalla regia, insomma, dai nostri ascoltatori, che se uno dice William Shatner, la prima cosa che tiene in mente qual è? Bohemian Rhapsody. No, devi dire Star Trek. No, invece no, è Bohemian Rhapsody, perché non ce l'abbiamo, la prossima volta ce la procuriamo, faremo sentire 15 secondi di Bohemian Rhapsody cantata da William Shatner, che è una cosa fantastica. Bene, allora, il sangue del tapiro, come sapete, è la rubrica dove noi raccontiamo le leggende, le famose leggende metropolitane. Ma anche le bufale e le leggende. L'altra settimana, per esempio, abbiamo raccontato la fantastica storia del maione. Una tristezza, veramente, uno dei punti più bassi. Tanti mi hanno scritto poi dicendo, ma tu l'hai trovato un maione legato su una lapide? E io no, fortunatamente. Per fortuna che mo ci stanno più le lapidi a cui legare, sono tutti fornetti, per cui. Però sai, qualcuno, c'è sempre un modo, sì, voglia. Sono casti dentro. No, io diciamo che ho scoperto la notizia. È una notizia incredibile, perché voi sapete che esiste questo male? Questo male che è quasi incurabile, però in realtà c'è un modo, perché non, questo è voi, gli scienziati, i dottori non ve lo dicono, perché è un metodo che non costa un cazzo, non te devi fare le chemioterapie, radioterapie, no, tu basta che usi erbicarbonato, non dite ad alta voce che se no ci curano. Erbicarbonato e limone, li metti insieme. Che fanno? E te curano. Te curano. E il cancro. Il cancro. Tu fanno passare. E no, queste cose non le dicono da nessuna parte. No, no, cioè, non le dicono. Mio cugino, perché di solito quando ti raccontano queste cose c'è sempre un cugino di mezzo, c'aveva il tumore allo stomaco. Però forse perché siccome che c'era sempre sti dolori, si beveva sempre tanto sto bicarbonato. Aspetta, che detto? Alla fine il bicarbonato o beveva? O beveva, sì. Anzi, mette in culo. No, se scusa, beve. Io ho delle notizie. Se scioglie e se beve. Se beve. E se io però, bicarbonato se beveva. Non era modo creato una patina intorno al tumore. Non è modo supposta, perché io l'ho letta diversa. No, mi sa che non fa bene il bicarbonato su per culo. No. No, con tutto il limone intero. Con il limone intero, quello poi ancora. Però alcuni potrebbe anche. Insomma. Io ho gente, so degente. Non ho questo cazzo. È una persona che conosco. Eppure il costruttore. No, sì. Però non dico i nomi. Infatti perché non è bello. Un anno in galera, no? Che comunque fino all'ospedale con limone in culo. Ah sì sì, io c'ho un amico mio che una volta lo porto, che ha lavorato al pronto soccorso, che anche lui c'aveva un sacco di cugini, che è pieno. Racconta che ha visto il cugino con varie cose, insomma. Vabbè, dai, quindi comunque questa è sapete questa cosa qui non lo dice nessuno. Lo sapete perché non lo dice nessuno? Perché è una cazzata in mano. Cioè mi ha diciato, insomma, no, perché gira questa cosa ogni tanto, viene comunque riportata sta cosa, sta notizia che dice che praticamente con il limone e il bicarbonato ti cura tutto. È una cazzata. Io quindi il bicarbonato ogni tanto me lo prendo. Sì, ma non ti fa passare il tumore. No, mi fa passare il mar de panza. Cioè no, quando neanche mangi? Il mar de panza. Ti fa rotta. Sono pieno, faccio certi rutti. Sbra. Esatto, posto, cioè, va bene. Però tu così facendo. Quindi niente lapidi stavolta. Niente lapidi, niente maglioni. Però il limone in culo sì. Esatto. Quindi, io posso aggiungere se una cosa. Se sulla lapida trovi il limone che fai? Io posso aggiungere una cosa, questa roba qua io non la sapevo, cioè grazie a Dio non frequento gente che linka cagate del genere, però è figlia ed è sorella dell'antivaccinismo, è presente? E il no, problema è... No, questo è il... come ti posso dire? È l'antitesi, è l'antiscienza, diciamo, il proto-vaccinismo questo è, cioè nel okay. senso, queste sono quelle leggende che ti dicevano le mamme, no? Che dicevano, ma hai saputo quello che gli ha detto il dottore? Che alla fine, è quello che raccontavo prima, no? Cioè, si è formata la patina sul tumore, è guarito, capito? Cioè, stronzate così, no? E poi dopo è nato tutto il resto, chiaro. Ho capito, ma la mia domanda è, ed è una solita provocazione, se uno è talmente coglione di volersi curare in certi modi e non in altri, che poi non fanno guarire, uno potrebbe dire, vabbè, cazzi tuoi. No, perché è una spesa seria per la società. Se uno fa casini con il proprio corpo, poi diventa un peso comunque per gli altri, ed è una rottura di coglioni questa roba qua. Infatti ti dicono, vuoi drogarti? Drogati. No, perché se ti droghi poi magari fai un incidente, no, oppure magari rimani paralizzato, allora diventa una spesa per... È un casino. Io adesso posso sembrare veramente un fascista a dire queste cose, però a volte mi viene da dire che io devo tenere alla tua salute, nonostante reputi che tu sia un coglione, perché se tu stai male poi alla fine ci vado di mezzo pure io. Ed è una cosa terrificante, dal mio punto di vista umanamente parlando è agghiacciante questa cosa e non mi piace, punto. Ci sono è bella cosa bella di fare una trasmissione online anche se ti ascoltano in 15 è il fatto no che... guarda che c'è veramente una vagonata di gente oggi che ci ascolta, però quelli che commentano sono sempre quelli un po' più i fedelissimi che a un certo punto si mettono a parlare dei cazzi loro e questa è una cosa fantastica, quindi stavo seguendo che vedo sì, che sì, c'è sempre una parallelezza o parallelità, no, no, è sempre collegato, parallelitosità, esatto, ecco. Non vuoi ricostruire un po' la questione, insomma. No, praticamente diceva che c'è la ragazza di Danilo Giardino che si ricorda la storia del maglione uguale, però non è che Simone in realtà è la ragazza di Danilo, cioè, forse la fidanzata di Danilo è Simone, perché la d'amore. Ragazza di Danilo in realtà è, gliel'ha detto mio cugino, che è cugino pure suo. Ah, può essere, cioè, quindi siete parenti, vedi. Poi dice sempre che se parla di bufale mediche lui ne ha per mesi, insomma. Poi ci sta mettendo un... ci ha fatto un esempio, ma magari non ne parliamo perché è veramente di gente che praticamente ha fatto morire persone, quindi non è una cosa molto bella da... noi ammazziamo ma di bestemmie, però queste persone qua. Esatto. Va bene, dai, allora questo è il sangue del tapiro, a questo punto ridateci il tempo perduto. La voglia. Aspetta che parte la musica, anzi no, stavolta qui c'ho anche la... Sì, mangia pure le Ferrero Rocher, dai, va tranquillo. Sigla! eccoci qua per la nostra bellissima rubrica Ridateci il tempo perduto. Allora, oggi abbiamo un sacco di cose da raccontare, per cui uno a testa. Cioè, intanto che Pussy Calore si sta mangiando i Ferrero Prestige. Ah, pure Prestige. Allora inizia tu, caro Alex D'Amore. Allora, vi racconto, ho visto un film che è veramente uno di quei film che di solito guardo con il cellulare acceso in modo che faccio altro, non tanto che vedo quella merda. Ma era talmente merda che anche vedendolo come second screen mi dava fastidio. Ed è il secondo capitolo della saga di Divergent. Nella fattispecie il film si chiama Insurgent. Allora, non so se voi avete visto Divergent, il primo. No. No. È, diciamo che è una sorta di Hunger Games rimaneggiato, dove fondamentalmente, come al solito, i bambini, cioè gli adolescenti di merda, salveranno il mondo, cosa che invece non è vera. Perché fai questa faccia schifata? Perché lo distruggeranno. Cazzi tuoi, cioè io non sono scaduto. E adesso si andrà sui film snuff tedeschi. Praticamente. No, potrebbe morire in diretta, con noi è insomma, diciamo che... attenzione. Veramente fa una faccia da schifo, cioè. Non mi dispiace, non lo so, io non le mangio queste cose. Ma li so tutti, la gente. Ma no, cadono a marzo del 2016. Da consumarsi preferibilmente entro il 3 2016. Siamo ancora nel 3 2016. Allora, ma semplicemente carissimo, allora, nessuno no. Fa scadere Ferrero Rocher. Quello è il gusto prestigio. Vabbè, dai, vedrai che non passa neanche per lo stomaco. Direttamente. Vabbè, vai avanti. Ma insomma, il film ha fatto veramente cagare la merda. E insomma, l'idea è che ci sia un altro film in elaborazione, anzi no, che credo che sia uscito recentemente, un altro in elaborazione, perché la trilogia in realtà è una quadrilogia, anzi una tetralogia, mi fa veramente pensare che dove cazzo stiamo andando? Era meglio quando si stava peggio, i treni arrivavano in orario e i film erano Harry Potter. No, scherzi a parte, è un film che mi ha fatto cagare, non guardatelo, anche se non vi piace non guardatelo. Benissimo, invece io ovviamente vado a pescare sempre tra le meraviglie che Netflix ci regala, perché giustamente Netflix è fantastico, vede tutte le serie, sto vedendo di tutto e di più, però dal punto di vista cinematografico Netflix fa cagare, diciamoci un po' la verità, c'è veramente poca roba. E dopo quel fantastico film che abbiamo ripescato nella prima puntata, del quale già non ricordo neanche il nome, era un film insomma di fantascienza addirittura in mezzo indipendente, 2047 Sides of Death. Ah, te lo sei segnato, bravo, bravo, bravo. Invece qui si parla del film di Halo, che poi non è, dice, sai, hai fatto il film su Halo, che è il videogioco famoso di Microsoft per Xbox, il videogioco del momento, ma diciamo. È Halo 4, non ho capito perché deve essere proprio il 4 il film, non mangiarlo, cioè scusami, no, che se questa sta per vomitarmi sul mix, però continua a mangiarmi, sta lì, oh che schifo, no, no, è sempre lo stesso, un po' come Homer Simpson, ah che schifo, oh, mi fa male, oh. esatto. Vabbè, poi dopo se vomita fai la foto, ma siete una caramella, boh, non ho dolci, vuoi un pezzo di come si chiama, di ma credo che a loro non gliene frega, no, niente, non vedo l'ora di sentirti parlare. Ah, comunque sono andato a vedere il binario 9 3 quarti a Londra, e fa cagare, è un posto più brutto di Londra. Chiusa. Cosa? La parentesi, il binario di Harry Potter 9 3 quarti. Ah. Vedi come quanto sono esperto, perché io conosco il mio nemico. Ma che c'entra? No, io ero. Come si chiama quelli secchioni? Un nerd, no, non sei un nerd. Vabbè, i secchioni, c'erano i Sempreverde che erano i razzisti, i Grifondoro che erano il cagacazzo, che siamo belli. Ma che c'entra adesso? Cazzo, che c'entra adesso? Rosso, gli altri erano. Scusa. Corvo nero. Chi erano i secchioni dei due? Oramai siamo andati proprio ognuno per cazzi. Secondo me è Corvo Nero, però secondo me io ero un secchione. Secondo me mi avrebbero messo nei secchioni. Sei un babbano di merda. Ma che babbano, c'ho la magia tra le palle. Benissimo. Meglio nelle palle che è andato. Esatto. Vabbè, ma andiamo avanti. No, ma poi perché? Che cazzo c'entra di posto? Riguardatemi il tempo perduto. Io ho visto tutti i film. Comunque, riguardatemi il tempo perduto. Cioè, Halo 4, Forward Underdog. Forward Underdog. Voglio dire, cioè, perché fate sti film di merda? Ma soprattutto, perché li doppiate in italiano addirittura? Cioè, ci spendete i soldi, cioè, capisci? E questo, la gente questa non li ora capisce. E 20 che io ho guardato a vedere questo film, veramente, che io e Alex, ai tempi di Scar lo facevamo meglio. Ma chi me li dà sti nessuno. Perduto, ma anche i soldi li danno. E suggerite, continuate a suggerire, cari amici, insomma, anche voi, insomma, li dateci il tempo perduto, insomma, delle prossime volte. A questo punto io direi che Aspetta, però ci sta, io vorrei parlare della trama di Batman. No, che litiga, che litiga con Superman. No, ancora lo dobbiamo andare a vedere. No, no, aspetta, perché io ho capito qualche cosa da quei 40 minuti di trailer che hanno fatto sì, fino adesso. Che voglio dire, è il film gratis. È un film gratis. Che secondo me, e tu, perché poi tra l'altro probabilmente lo andiamo a vedere e sarà sicuramente ridatemi il tempo perduto della prossima volta. Secondo me è una, Torelle, che bello. È una questione dei soldi. Secondo me è una questione dei soldi. Cioè, c'è nel sta... senso che tipo Superman gli ha chiesto i soldi a Batman. Superman è andato da Batman, ha detto ciao a Batman, e perché dai, Batman c'ha i soldi, quello c'ha i soldi. Senti, che me dai dubiotte, sai perché c'ho da fa, sono uscito con la tutina attillata, non c'ho più manche le mutande sopra la tutina che mi c'è infilato i soldi, sto così. E Batman, che lui alla fine è buono, è un bonaccione, c'ha il cuore d'oro e mano di piombo, però è un bonaccione, gli ha dato i dubiotte, c'ha la bat cintura ma che c'ha dubiotte, gli ha dato dubiotte. Questo è passato un mese, è passato due mesi, non gli ridava, alla fine Batman ha chiesto, senti, ma quei dubiotti, e guarda, sto con la tutina attillata, non c'ho più manco i pantaloncini sopra la tuta perché prima ci incastavi i sordi. E una volta e due volte, alla fine mi sa che questo si è incazzato, quindi credo di aver capito che sia questo. E invece Iron Man con coso che si incazza, allora, allora questo è Batman litiga con Superman, quell'altro è Capitan America si incazza con Iron Man. Iron Man, che poi mi sa che è il contrario, che Iron Man si incazza, no, è Capitan America che si incazza con Iron Man. Lo sai perché? Sì, quando l'hai visto? Secondo me è una questione dei soldi, pure qua. Perché Iron Man c'ha i soldi, pure gli ha chiesto due scudi. Oh, che mi presti uno scudo, gli ha fatto vedere che. Mi presti uno scudo, quello gli ha dato uno scudo e non gli ha preso. Si è preso poi l'omoragno quello. Si è preso l'omoragno. Vabbè, a questo punto io direi che andiamo alla posta. Anche perché c'è veramente poca roba. Visto e considerato che da quando noi andiamo live, la maggior parte dei commenti li fate live, perché poi dovete rifarli poi dopo in differita, insomma. Però ci stanno, quindi Alex, se sei pronto, andiamo. Ma non, non c'era però... anche quello l'angolo dei sondaggi? Il sondaggio? Sondaggio sì, se mi apro. No, ce ne stanno tanti. Allora io no, uno perché siamo già belli. No, oltre, ma leggiamo veloci, no, proprio uno, così uno, velocissimi, velocissimi. No, perché ce ne stanno tanti, dai. Allora, sempre da Libero Quotidiano, poi ci stanno diverse cose, che è il giornale tipo, adatto, che è proprio c'è scritto quotidiano perché far capire che è un giornale, perché sennò potessi che ne so, se si voterà nel corso di un ponte, voi andrete alle urne in vacanza, che ne so, sono bellissime queste cose. Elton John accusato di molestie sessuali, voi ci credete? Oppure il gioco della torre, chi butti giù tra Milli Carducci e la De Filippi, la torre direttamente con tutte e due sopra, per dirti da sotto, da sotto. Il Rai, il canale in arabo, è giusto finanziarlo con i soldi pubblici? Oppure duello tra le ex Miss Italia, Colombari o Chiabotto, per voi chi è la più bella? E poi c'è questo duetto che è stupendo. Allora attenzione, 5 trionfi alle amministrative, per voi il CAV ce la può fare, che poi adesso il cavaliere è il più di un cazzo perché no, è stato revocato la cosa. Sentite, può vincere, la può fare, sentite com'è propositivo. Subito da prima al voto nelle città, secondo voi Renzi rischia di perderle? Negativo, vedi come rischia di perdere. È un giornalaccio, cioè proprio roba. Vabbè, io direi che basta così, basta. No, non, allora, non andateci, perché tanto questi sono dei clickbait. Ci andiamo direttamente noi, ci sacrifichiamo per voi e ve li leggeremo di volta in volta. Però voi non ci andate. Benissimo, benissimo. E Alex, passiamo all'angolo della supposta. Aspetta, che c'ho la sigla vera e propria, carichiamola con grande velocità. Mi piace. E viva la diretta, insomma. No, in realtà non ce l'ho neanche perché l'ho messa direttamente in progetto. Per cui mettiamo la musichetta di prima. Dai, pronti? Pronti? Sì, dai, sì. Ed eccoci giunti all'angolo della supposta. Oggi non mi ricordo assolutamente quello che devo dire, per cui direi che lascio direttamente la parola. Anche perché è bellissima, la pagina è completamente vuota. No, è vero, perché ce l'ho su un file TXT e mi sono dimenticato di metterlo sul documento. Vabbè, ma vai, comunque, Simone d'amore. Ma comunque, in realtà, la posta in questo momento la apriamo in maniera anomala, perché Marco ha ricevuto. Sì, perché a me arrivano diverse mail di ammiratrici. Certo, perché da quando. Che sono famoso. Da quando andiamo in diretta. Anche se non mi battizzate la voce, vado con la voce mia, pensavo che avete la voce da anni. Modificate, invece no, e mi arrivano queste in realtà è arrivata nella mail dell'ufficio, ma perché sapevano che c'ero io, che ci lavoravo io, e viene da una ragazza che si chiama Olena. Allora, e mi scrive: salut, capito, no? Salut. Il mio nome è Olena, la mia età è di 35 anni, sono di Ucraina, la mia città si riferisce a Comelungask. Sono una ragazza sola che non riusciva a trovare un amore in Ucraina. ora sto cercando di trovare la felicità in internet. Amo cucinare il cibo per viaggiare, fare sport e guardare film. E molte altre cose, qua capito che ti lasciano molte altre cose. Tante cose. Tante cose. È abusiva la ragazza. Adoro i bambini, e qui proprio no, non ci siamo, non ci siamo. Ora a me non sono presenti, ma io sogno che ho i bambini. Punto esclamativo. Questa è Olena. Ero incuriosita con il questionario e Badoo.it. Capito? Io questo questionario non Danilo so. Dice che Olena la conosce. La conosce. Mi piacerebbe imparare meglio. Potrebbe essere tu, sei il mio secondo tempo. Ha scritto pure a lui. Email me la risposta necessariamente. Ti aspetto per questo, Olena. Quindi io che faccio? Gli riscrivo? Sì, gli risponde, gli devi mandare. Allora, prima di tutto mandagli le. Ma ha mandato le foto, è buona, questa buona. È buona, le foto. È che mica l'ho stampata. Che cazzo, Marco? Vabbè, no, la prossima volta le Olena sta ingrifata, perché Olena manda le mail a tutti, ma io ho capito, io pensavo che amasse solo me, invece no, niente. Vabbè, io direi che alla fine vedo che le mail le ci ha mandate, cioè i commenti l'hanno fatti quelli che stanno in diretta adesso, quindi penso che insomma pure la posta c'è Geggio, quindi possiamo lasciar perdere. Ah, c'è Marco Funne, che Marco Funne lo possiamo anche leggere, Marco, vero? Funne guaiò. Allora, Marco Funne da Facebook, che penso fosse quella della puntata sulle MILF. Oh, scusate, sulle bimbe micchia a 40 anni. Grande puntata, apprezzatissima la citazione della puntata finale di Boris. Provo le risate fuori campo, fanno molto troppo frizzante. No, Alex. Viva me! Vabbè, io direi anche basta, perché gli altri sono sempre loro, quindi insomma. Allora, facciamo un giro di saluti alla fine di questa puntata. Prima di salutare ovviamente la nostra ospite, però diciamo un attimo un po' di che cosa? C'era Giovanni Sandri che ci diceva Midici, vabbè, però. Midici, vabbè, Giovanni Sandri, Midici. Su iTunes, tra l'altro, non ci sono commenti. Allora, ricordate di cercare Morti di Bestemmie sul canale di Videoludica su Spreaker, quindi Spreaker.com, cercate, insomma, Morti di Bestemmie, ci trovate. Iscrivetevi al canale di Videoludica, dove insomma ovviamente trovate anche lo show, e ogni volta che saremo in diretta o ogni volta che metteremo una nuova puntata riceverete ovviamente le notifiche e potete tranquillamente ascoltarci. Altrimenti su iTunes cercate Morti di Bestemmie. Stranamente ancora Apple non ce l'ha troncato, e ci fa veramente piacere, insomma, perché il segreto è che l'abbiamo scritto tutto attaccato, per cui gli algoritmi gli non lo sanno, non hanno capito. Sì, questo è un po' come di tutto un podcast, queste cose meravigliose fatte di fretta che quello fu proprio un errore, insomma, invece questa è stata una scelta stilistica. E va bene, quindi ci cercate anche su iTunes, abbonatevi, mettete 5 stelle, fate una recensione che per noi è veramente molto molto importante, ma soprattutto commentateci, partecipate alla fantastica iniziativa ammazza, tira una bestemmia, esatto, anche tu al tuo vicino di casa, ammazza una bestemmia un tuo caro, insomma, scriveteci chi volete che noi ammazziamo di bestemmie, noi lo facciamo su commissione, se poi ci date 5 euro ogni volta che lo facciamo, insomma, noi prima o poi diventeremo ricchi e saremo tutti e le bestemmie funzionano meglio, perché se tirate fuori il denaro, esatto, denaro influisce sulla forza di nostro signore, porco due, perché il denaro è lo sterco di Satana. Non potrei dirlo, ma in realtà insomma la prossima settimana o fra qualche giorno apriremo un nuovo sito, quindi insomma dove praticamente c'è un po' tutto dentro e anche lì insomma ci trovate. Quindi detto questo, allora salutiamo e ringraziamo e benediciamo anche il nostro amico Marco D'Amore. Salve a tutti. Dove ti posso trovare? Potete chiamare. Ma bastate che voi digitate Giocono da qualche parte e scappo. Dillo com'è se Giocono. JOKONOH. Ok, perfetto. Allora salutiamo anche Alex D'Amore, che prima di salutarvi vi invita a partecipare su Twitter con il nostro account @MortiDiBestemmie1 infatti, sul canale Telegram di Morti di Bestemmie, in cui bestemmiamo bellamente. Hai ragione. E detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, sono sempre molto felice e molto contento di essere qui con voi e essere anche qui con me stesso, okay. Ma soprattutto di essere qui con frullo di tamburi, Pussy Calore. Ciao, è stato un piacere, sono veramente stata benissimo, una bella serata, poi... Posso fare una cosa, se magari cambiamo... Fate escire, se magari, non so, potremmo anche richiamare, però in altri siti, potrebbe parlare di qualsiasi cosa, tanto... è uguale. Basta che fa la voce. Basta che fa la voce un po'. Un po' micia. Da micia. Mi che la scema, no? Ti voglio dire, fa la voce da micia, che è più carino. Ma che è il sorcio, è il sorcio. Vabbè, detto questo, anche da me. Comunque vorrei sottolineare, prima che parli tu, scusami Simone, che qui qualcuno le ha uscite e qualcun altro, non dico Gwen, non le ha uscite. E basta con sta storia che mi creano. Che se no noi uomini pensiamo che Gwen è un uomo col cazzo. No, dai. Vabbè, allora io non c'entro assolutamente un cazzo sta storia. Come sei democristiano. Detto da me, detto questo, anche da me, Simone D'Amore, un saluto e alla prossima puntata. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ok, direi che stoppiamo la registra. Ah no, dovevo dire una cosa, vabbè, la dico così, tanto per... Pussi te volemo bene. Pussi te volemo bene. La musica che avete ascoltato fino adesso è No One Mourns the Wicked, tratta dall'opera rock, dal musical Wicked, di Steven Schwartz. E sti cazzi, in realtà è bellissima e adesso vi beccate l'intera canzone alla fine. Yeah! Wickedness thrust upon them. After all, she had a father. She had a mother, as so many do. How I hate to go and leave you lonely. That's all right, it's only just one night. But know that you're here in my heart while I'm out of your sight. Like every family, they had their secrets. Have another drink, my dark-eyed beauty. I've got one more night left here in town. So have another drink of green elixir, and we'll have ourselves a little mixer. Have another little swallow, little lady, and follow me down. And of course, from the moment she was born, she was... well, different. It's coming. Now? The baby's coming. And how? I see a nose. I see a curl. It's a healthy, perfect, lovely little beast. What is it? What's wrong? How can it be? What does it mean? It's atrocious. It's a fiend. Like a froggy, ferny cabbage, the baby is a naturally free. Take it away. Take it away. So you see, it couldn't have been easy. Ti opprime? Lei non ti attrae più? Qualcosa in te non sta funzionando più come una volta? Non fidarti delle pillole blu. Rivolgiti agli specialisti. Trapianto di minchia. In sole 48 ore tornerai ad avere una minchia funzionante al 100%. Basta con le scuse, basta con i rimpianti, basta con la tua vecchia minchia. Trapianto di minchia. L'unica vera soluzione per una minchia nuova e fiammante. Trapianto di minchia. La minchia del porco bue. Come, ancora il porco bue? Ah, sì. Ma non sono quelli della sarciccia de manzo? Secondo te dove vanno a finire tutte le minchie che spiantano? Ma... ah... ah... morti di bestemmie! E invitate Gwen la prossima volta, ben volentieri la inviteremo, ma quella non si fa vedere, non si fa sentire, non si esce. Ma noi magari, possiamo parlare anche magari se magari si esce incognito, per cui ne sai. No, ma non c'è la canzone, questa è per quando la registriamo. Quando se non c'è il drone. Quelli stanno aspettando la canzone, vedi? Sono figuriamoci. Se no, ti pare che loro hanno resistito fino ad ora per ascoltare la canzone, mica per noi. Va bene, salutiamo, rompi la diretta così caso. Io mi scarico la puntata e poi la levi. Va bene, ciao ragazzi, signore e signori, un abbraccio. Ciao! Ciao! Intanto l'Italia sta perdendo 1-0 contro la Germania. Vabbè, anche vabbè, ma è normale, siamo d'accordo. Parla Marco. Eccomi, mi sono avvicinato al microfono. Bravo. Però come facciamo a camuffare la mia voce con un microfono solo adesso? Ma noi ci abbiamo sempre avuto un microfono solo. E quindi non avete mai camuffato? Mai in tutti questi anni sono andato con la mia voce naturale. Esatto, infatti quando venivano, ecco perché non vendete una casa. Porca troia. Io sto già registrando, eh. Va bene. Dimmi, noi ovviamente non sentiamo background, non sentiamo niente, quindi sigla. No, ma non c'è background, le dico ad cazzum ste cose. Tu fai ripartire, perché sennò ovviamente noi partiamo a cazzo de cane. Quindi sì, io vi dirò... Come l'altra volta. Come l'altra volta. Sì, a un certo punto, come tanto l'importante è la differita, la diretta, non serve a cazzo. E la differite, infatti. Anche la differite, sì. Aspetta che... voi parlate intanto... C'è un certo Fabio Parola, che è nuovo questo, un nuovo ascoltatore. Non lo so, non lo vedo. Mai visto. Vedo. Ciao Fabio Parola, bellissima l'immagine. Sì. Sì, solo dal canale destro ci sei. Lei in stereo, ma tu solo dal canale destro, ma è uguale. Ma è uguale, è lo stesso. Sì, sì, non ci frega niente. Tanto, ma tanto non c'è niente da fare. Tanto smarmella lui. Esatto. Parola è come Jerry Calalbar dello sport. Parola. Parola. Sì, infatti, parola. Giusto? Sì, sì. Sì, sì, mi sembra proprio di sì, quello che non parlava mai, no? Esatto. Mia migliore interpretazione. È certo che lei è la bad teacher. Sì, bad teacher? Sì, sono io. Sì, ma non sembri tanto bad, sembri abbastanza teacher, però. E cosa devo fare? Tipo, cos'è la prima cosa che dici ai bambini quando entri? Non è giornata. Grande! Sì, vabbè, ma andiamo in trasmissione prima, però. Vabbè, dai, partiamo? Parto? Eh sì, dai, sono allora, 25. Con 5 minuti di anticipo, metti un po' di pubblicità, non so. Aspetta che devo trovare la... Ma scusate, ma voi due chi siete? Noi due e chi? Noi. Cioè, io non so i vostri nomi. Io sono Marco D'Amore. Esatto, e io sono Simone D'Amore. Simone D'Amore. Marco e Simone. Bene. E accattate c'è Alex D'Amore. Ottimo. Siamo tutti E tu sei Pussi D'Amore. E tu Pussi D'Amore. Pussi L'Amore. Sì, molto. Oh, signore. Minchia, Pussi D'Amore. Mamma, che schifo. Ma gliel'ho detto prima che non ho fatto la doccia e puzza un po'. Ma sì, però sì, se lo dicevi importante. Magari aumentava il tuo sex appeal. Ma c'è chi piace anche questo. Infatti sì, infatti sì. Che sembra la Letizietto, è vero, un po' gli assomiglia la voce. La donna da puzza. Beh, insomma, no. Adesso sembro la Letizietto, stai attento a quello che dici. La voce, un allora, po' allora, sì. Allora, quando faccio la vita, però. Io che la conosco e la sto guardando in questo momento, vedrei che è un gran bel pezzo di manza. Ma smettila! Manza soprattutto, anche se manza! Nel senso di buonazzona. Se non è una bella gnocca, è una manza, capito? Un po' come dire una mucca, insomma. Porco bue, sì, Ale. Occhio! Però è bello che lei che non è giornata. Ha il bicchiere di vino in mano. Beh, ma sei venuta nei suoi tasti. Sei venuta alla trasmissione che si chiama Morti di Bestemmia, ci devi stare un pochetto, perché sennò... Ma vedi? Non vedi, oh. Che roba. Io dai, direi che fra 3 minuti partiamo, anche se stiamo già registrando. No? Pixar didn't happen. Ah, nel senso, voglio vedere una fotografia. Aspetta che ti faccio una foto molto sfocatissima. No, non esiste. No, questo non lo puoi fare. Soltanto alle tette ti faccio la foto. Dai, la scollatura. Sì, quello lo puoi fare, la scollatura voglia. Sì. Visto sempre su. Ah, certo, tira su. Visto che qui c'è qualcuna che non le è uscite. Ma lo sta facendo davvero. Però non ritorniamo, ragazzi. No, perché you have the code of pale. Io no. Hai la coda. Ma in realtà non ci sono stati incidenti diplomatici. Non si vede niente. Pubblichiamo la foto delle quello, tizie. Il vedo, non vedo, vedo, non no, vedo. No, perché bello. Lui mi ha fatto rivestire prima. Sono un signore. Ah, c'ha ragione. Comunque, sul canale di Morti di Bestemmie di Telegram ci sono le foto della scollatura di Miss Pussy Calore. Geggio von Matterhorn. Ti stiamo perdendo. Come vi state perdendo? Che tipo di collegamento, ragazzi? Ragazzi, Skype, dobbiamo provare la cosa. Esci da tutto, escile. Devi chiudere i porno, Alex. Che porno? Non c'è e niente. Quelli di prima, non dire che porno, smettila. Ma si capisce, no? Qui mi si inchiappa, lo so. Va bene, dai, io direi che partiamo, chi se ne frega, ok? Sì, facciamo che tiriamo giù e ritiriamo sulla conversazione così giusto per sport. Va bene, allora, tanto mi chiami tu? Ok, ciao! Ciao! This podcast has been produced with... Pod Cleaner.